merengue, tutta un'altra musica. Ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Furlane, buonasera a tutte. Questo è Zardis Magnetics, in onda ogni giovedì, più o meno da 1000 anni, dalle 20 alle 21.30. 20 variabili, inizio alle 20 variabili. Vabbè, stasera avremo tanta musica e anche qualche interessante intervento, speriamo bello d'ascolto per tutte. Ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onde Furlane, e benvenute a Zardings Magnetics che state ascoltando. E giovedì scorso avevamo annunciato la lettura di un contributo e di una compagna della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Roma, e contributo che riguarda le donne di repressione, e cioè poliziotte, militari, giudici, ministre, politicanti varie, manager, dirigenti, padrone e chi più ne ha più ne metta, donne di repressione che vengono definite anche patriarche. Diamo lettura di questo contributo. Inizia con un incipit di Daniela Pellegrini che dice: ogni donna del percorso della sua crescita, porta dentro di sé uno o più marchi indelebili di illibertà. Sono segni del potere, iniziazioni a quel maschile e al suo rispetto. Sono seduzioni dell'alterità vincente che ci hanno fatto sentire vive dentro gli stereotipi di questa cultura e ce li hanno fatti assumere come nostri, dentro e fuori di noi. Il risultato è una complicità con e per ciò che è vincente. L'8 marzo del 2019 il Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato i dati che ufficializzavano il cosiddetto sorpasso rosa. Su 9.401 magistrati ordinari, 5.103 erano donne, cioè il 53% del totale. E se guardiamo ai giovani magistrati in tirocinio, il dato è ancora più netto, perché la percentuale di donne è del 66%, 231 su un totale di 351. In Italia, poi, fra i direttori di carcere, e usiamo volutamente il maschile sottraendoci all'uso politicamente corretto di un femminile che costituisce un artificio e suona come un coccio rotto, le donne sono il 60%, 6 su 10. Moltissime poi sono nei corpi di polizia e di controllo in senso lato. Qualche giorno fa, parliamo di inizio ottobre, in realtà, la portavoce del movimento NoTav, Dana Lauriola, è stata arrestata all'alba e trasferita al carcere delle Vallette a Torino. Dana deve scontare una condanna definitiva a 2 anni per una protesta NoTav del 2012, in cui fu occupata l'area del casello autostradale di Avigliana, facendo passare gli automobilisti senza pagare il pedaggio. Il legale di Dana aveva chiesto l'applicazione delle misure alternative che vengono normalmente concesse in questi casi. Applicazione che è stata respinta, tanto che l'avvocato difensore ha dichiarato che in 30 anni di professione non gli era mai capitato un caso analogo. La paradossale sentenza è stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, nella persona del giudice Elena Bonu. Il giudice è una donna. Il movimento NoTav ha già fatto esperienze di questo tipo. Nella vicenda di Maya, tanto per citare un altro caso, uno dei tanti, Maya, compagna NoTav, nel 2017 aveva denunciato le violenze e gli insulti subiti da parte della polizia di Torino e venne interrogata sia come parte lesa, perché aveva sporto denuncia, ma anche come indagata, non si sa bene di cosa. Anche in questo caso il pubblico ministero era una donna, Emanuela Pedrotta, nota per l'attenzione al movimento NoTav e ai militanti torinesi. O il caso di Marta, compagna pisana che durante una manifestazione notturna al cantiere di Chiomonte venne fermata dalla polizia dopo una violenta carica nel luglio 2013 e denunciò in una conferenza stampa di essere stata pestata, insultata e molestata sessualmente, ripetutamente insultata anche da un'agente donna, con gravi epiteti di carattere sessista. Come se non bastasse, fu lei ad essere denunciata. Alla prima udienza del processo, le compagne che esposero uno striscione di solidarietà furono caricate, denunciate e accusate di ogni sorta di reato e condannate a 8 mesi. La PM era una donna, come tutto il collegio giudicante. Questo solo per citare alcuni casi che riguardano il movimento NoTav, dato che il posizionamento nei riguardi di questa lotta è una cartina di tornasole. Queste donne di repressione fanno parte del vasto arcipelago delle patriarche. Le patriarche realizzano in questo modo una forma moderna di endogamia e di innalzamento del loro status, e per far questo di fatto devono denigrare tutte le altre, presentandole come retrograde, o radicali, o settarie, o estremiste. Come nella stagione in cui le multinazionali distruggono l'ambiente e vengono create le oasi, così nella stagione neoliberista, in cui la condizione delle donne è sempre più disperata, viene enfatizzata l'attenzione all'oppressione di genere per ridurla ad una questione di area protetta. E le patriarche si offrono come direttore, guide, rangers e mettono in preventivo l'abbattimento dei capi problematici o in sovrannumero. Una nuova griglia oggi ricostruisce la dimensione simbolica, politica, sociale del patriarcato, nascosta dietro l'attenzione alle donne. È in questo contesto che nascono le patriarche, nuova classe dirigente che condanna all'odio e al silenzio chi non si intruppa, mentre si estende sempre di più la fascia delle donne intimidite, impoverite, disoccupate, emarginate. Le patriarche vogliono instaurare una pace sociale propizia al capitale, al patriarcato, e per far questo devono fare leva su una informazione, una comunicazione manipolata, e le vecchie e nuove oppressioni vogliono farle passare attraverso la retorica di una libertà di scelta che ricorda la libertà di scelta del consumatore. Il piatto è unico, ma si può scegliere il condimento. Ma le donne di repressione hanno delle caratteristiche precipue che le rendono particolarmente rabbrividenti. Condannano, puniscono, reprimono. La lotta femminista, oggi come non mai, deve fare chiarezza sul ruolo delle donne che si sono messe al servizio del potere, che usano e hanno usato l'emancipazionismo per la promozione personale e hanno fatto propri i valori neoliberisti. L'oppressione sulle donne è trasversale, ma nessuna lotta femminista può essere interclassista. Nessuna lotta femminista che voglia avere un minimo di credibilità può prescindere dalla denuncia del ruolo delle patriarche. Alcune compagne femministe tempo fa hanno detto che sì, è vero, è questa la realtà, ma sono restie nel portarla alla luce per il timore di rompere il fronte delle donne. Il conflitto, invece, deve essere portato alla luce, non può essere taciuto. È attraverso il conflitto che si può sperare nella presa di coscienza. La nostra resistenza contro l'uso che viene fatto di noi, resistenza che cresce quando l'analizziamo, rende la nostra esistenza omogenea. Questo conflitto tra il soggetto, l'esperienza cioè delle sue pratiche, e l'oggetto, l'appropriazione che ci frammenta, produce la nostra coscienza. Oggi questa coscienza è ancora spesso individuale, è quella dell'esperienza particolare e non è ancora la nostra coscienza di classe. In altri termini, è la coscienza di noi stesse come individue, ma non ancora il sapere che la relazione in cui siamo definite è una relazione sociale e che non è un caso sfortunato o una cattiva sorte personale ad aver messo la nostra persona in questo invivibile dilemma. Sarebbe ora che ci conoscessimo per quello che siamo, frammentate sul piano ideologico perché utilizzate per usi concreti separati. Questo ci dice Colette Villarmain, parlando del dominio che ci separa da noi stesse. Proseguiamo con la lettura di questo contributo sulle patriarche, sulle donne di repressione e di potere. La criminalizzazione del conflitto è un motivo dominante della costruzione della socialità neoliberista, costruzione che propaganda la convivenza civile, la democraticità del confronto, la gestione della conflittualità e che sdogana quindi solo la legge del più forte. L'unica violenza legittima è quella del sistema. Le donne dovrebbero inorridire al solo pensiero di far parte degli apparati di repressione e controllo. Sono state oppresse dagli ordini costituiti, dalle leggi, dai tutori della norma legale e sociale. Sono state oggetto di stigma e punizioni. Sono state bruciate sui roghi o internate come pazze e adesso diventano controllore di se stesse e degli oppressi tutti? Questa mancanza di presa di coscienza di cosa sia l'oppressione patriarcale costituisce un vero e proprio supporto al sistema. Viene la pelle d'oca, come viene la pelle d'oca quando vediamo un magistrato, una magistrata o un poliziotto o una poliziotta nero, nera. Neri da cortile e donne da cortile, parafrasando Malcolm X. Così un ministro dell'interno donna, Luciana Lamorgese, vara con il ministro di giustizia i nuovi decreti sicurezza che riguardano il controllo sociale nelle più svariate accezioni, alla repressione delle lotte, all'asservimento della popolazione, impostano una forte accelerazione ad una normativa che già di per sé era fortemente liberticida. Viene ribadito tutto l'impianto di criminalizzazione di chi porta la protesta nelle piazze e nelle strade. Non cambiano le pene spropositate per blocco stradale, come non cambiano quelle che Salvini aveva inasprito nei confronti di chi porta in piazza strumenti difensivi, come caschi e scudi, o nei confronti di chi utilizza nelle manifestazioni materiale pirotecnico e coreografico. Cambia in peggio l'utilizzo del DASPO e viene introdotta la possibilità per i questori di disporre il DASPO dai locali pubblici per chiunque sia stato denunciato o condannato per atti di violenza all'esterno di un locale. Viene accentuata la criminalizzazione di chi si incontra a fare serata nelle strade, nelle piazze. Vengono inasprite le pene per chi partecipa a una rissa. Per chi non rispetta il DASPO comminato è prevista la reclusione fino a 2 anni. E una multa fino a 20.000 euro, DASPO anche per spaccio di sostanze stupefacenti e istituzione di un elenco di siti internet utilizzati per la diffusione delle suddette sostanze, che i gestori delle reti dovranno proibire ai propri utenti. Inoltre, il decreto Lamorgese prevede il giudizio direttissimo per i delitti, cosiddetti delitti, commessi con violenza dagli stranieri trattenuti nei centri di espulsione, i CPR. Criminalizzando ulteriormente in questo modo le proteste che si verificano periodicamente in questi lager della democrazia. Va da sé che un'impostazione di questo tipo si presta a qualsiasi tipo di abuso, sopruso, minaccia e ricatto da parte del cosiddetto ordine costituito. Il ministro Lamorgese si è dimenticata delle denunce, delle delazioni, dei soprusi, delle torture, dei ricatti, della paura che hanno sempre accompagnato la vita delle donne? Il timore dello stigma, della condanna sociale, dell'essere fuori dalla norma, non sente odore di legna bruciata? E l'articolo prosegue con una citazione da Silvia Federici. I meccanismi stessi della persecuzione confermano che la caccia alle streghe non fu un movimento spontaneo da parte dei contadini, che le classi dominanti amministrative furono costrette ad assecondare, ma fu fomentata direttamente dalle classi dominanti. Una caccia alle streghe comportava l'arresto e il rastrellamento di varie persone e richiedeva quindi un'organizzazione e un'amministrazione ufficiale. Prima che una persona denunciasse il proprio vicino o che intere comunità fossero colte dal panico, era necessario un indottrinamento capillare. Anzitutto le autorità manifestavano pubblicamente una grande preoccupazione per il diffondersi della stregoneria e si muovevano di villaggio in villaggio per insegnare alla gente come riconoscere una strega, in alcuni casi portando con sé le liste dei nomi delle streghe sospette, minacciando di punire chi le aiutasse e le nascondesse. La caccia alle streghe fu anche la prima persecuzione in Europa in cui si fece uso di una propaganda multimediale per generare una psicosi di massa tra la popolazione. A che il neoliberismo, la fase matura e attuale del capitalismo, ha costruito una società di persecuzione, paura, controllo, stigma, delazione, manipolazione per piegare le popolazioni ad un cambiamento epocale nel rapporto con il potere. Gli oppressi e le oppresse devono volontariamente assoggettarsi allo sfruttamento di ogni più recondito aspetto della loro vita, privato e pubblico. Il patriarcato ci racconta che le donne sono istintive uterine e le loro scelte di conseguenza sono senza logica oppure sono fatte per amore. Oppure in altre occasioni, a seconda dell'utilità, ci racconta che sono condizionate da padri, mariti, fratelli, figli. Non sono autonome, non sono capaci di decidere da sole. Noi rigettiamo con forza questa lettura. Sappiamo che le donne sanno benissimo decidere da sole. Possono decidere percorsi di liberazione oppure di asservimento oppure di repressione delle altre donne e degli oppressi tutti. Sanno benissimo scegliere dove collocarsi e da che parte stare. Il patriarcato è diventato più forte perché, anche perché, il movimento femminista non è stato in grado di smascherare e di opporsi alla svendita dell'emancipazionismo al potere. Per questo dimenticarsi che la lotta di genere è inestricabilmente legata alla lotta di classe non solo è nocivo per la liberazione di noi tutte, ma è una precisa scelta di campo. Nota bene, apprendiamo ora che ad Anna Lauriola sono stati inflitti altri 10 giorni di carcere per oltraggio a pubblico ufficiale, perché durante il sit-in di fronte al tribunale in sostegno di Marta, per la vicenda che abbiamo raccontato, avrebbe insultato al microfono i poliziotti che stavano caricando. Il giudice, Maria Cristina Tognoni, ha emesso la condanna di primo grado. Quindi ancora un giudice donna. E concludiamo citando un altro articolo che riguarda sempre le patriarche, sempre di Elisabetta. Patriarche sono come quei colonizzati che vogliono minimizzare il loro grado di dipendenza e relativizzare la dimensione della loro oppressione e interagiscono con i colonizzatori nell'illusione che esista con loro un qualche rapporto di reciprocità e dimenticano che il potere reale si situa da una sola parte. Per questo è necessario resistere, opporre resistenza personale e collettiva alla marea montante della normalizzazione e rimanere serenamente e fortemente ribelli alle molteplici oppressioni, renitenti alla chiamata della leva, ferme nel nostro individualismo sempre solidale, con una lucidità che respinge la disperazione e la delusione. Insomma, rimanere rivoluzionarie è il solo mezzo per mantenerci vive. Passare a un altro contributo, avevo dimenticato un'altra malefatta della ministra Lamorgese, e cioè il fatto che insieme al capo della polizia Gabrielli, Lamorgese ha promosso alla carica di vicequestori i due poliziotti che introdussero nel 2001 le Molotov alla scuola Diaz, per poi giustificare l'irruzione e il massacro dei manifestanti e di chiunque quella notte dormisse all'interno della scuola. Ecco, questo così come finale di malefatte patriarcali, delle patriarche. Cambiamo argomento e parliamo di sorveglianza speciale, e con la lettura di un contributo di una persona che si trova in questa situazione, che fa delle riflessioni molto interessanti, riflessioni generali che partono appunto dalla sua situazione personale, ma che poi allargano il tiro. Questo contributo titola "Di questi tempi la sorveglianza speciale fa tendenza". L'incipit è di Max Stirner. "Io devo accettare che mi tratti come suo nemico, ma mai che mi tratti come una sua creatura e che faccia della sua ragione, o magari della sua stoltezza, il criterio per giudicarmi. A inizio ottobre 2020 mi è stata notificata una proposta di sorveglianza speciale, datata a giugno. Non è qui interessante capire come voglio giocarmi le mie carte, e non nel senso di impugnarle nei tribunali, nel momento in cui questa spada di Damocle dovesse posizionarsi davvero sulla mia testa, quanto comprendere come si muove lo Stato e che carte ha a disposizione in un momento che è di abbastanza evidente ristrutturazione e quindi immagino anche di aumento di falle e punti deboli. Non c'è nulla di nuovo nel constatare che al diminuire dell'iniziativa collettiva e individuale, lo Stato alza l'asticella della repressione, facendola cadere sempre più al ribasso. Mi spiego. Se le azioni diminuiscono sempre più, se le piazze si svuotano, i pensieri ardenti finiscono in presidio. Il potere accerchia chi si permette di esprimere un pensiero dissonante, sulla carta, su dei muri, urlandolo per strada, o come vi pare. Non lo dico con vittimismo, penso che sia corretta l'interpretazione che se un pensiero è affilato, dietro al pensiero c'è un'intenzione, quantomeno il desiderio di agire in sintonia col proprio pensiero. Non ci vedo nulla di strano, ad esempio, a veder comparire sui muri pensieri di rifiuto del controllo pervadente dell'esistenza e a immaginarmi che questa stessa o quelle stesse persone che hanno espresso quel pensiero, o chi semplicemente legge quel pensiero mormorando, ecco, sì, mi hanno strappato le parole di bocca, avrei proprio detto la stessa cosa, nella loro vita agiranno in sintonia con quello che pensano, magari, tra le altre cose, uscendo a respirare aria, a farsi accarezzare il viso dai raggi del sole primaverile, anche quando questa bucolica azione diventa illegale. Cosa c'entra tutto questo con la proposta di SS, cioè di sorveglianza speciale? La prova fondante della mia pericolosità sociale è giocata sulla sistematica violazione delle misure anti-SARS-CoV-2. Non voglio tralasciare la questione della storiella delle mie identificazioni o denunce qua e là, tutte denunce di entità ridicole. Per costruire il mio profilo criminale e nemmeno il fatto che, come altra prova schiacciante del mio essere una persona terribile, è che in alcune situazioni c'era la presenza di mio figlio minore. La cosa è preoccupante, ma il figlio minore ed io parliamo in totale sincerità e siamo consapevoli di non aver bisogno di farci rieducare dallo Stato e da nessun altro. Né la loro psicanalisi da schifosi in divisa sulla valutazione globale dell'intera personalità, sebbene non si sia raggiunta la prova di reità, ma vorrei porre l'attenzione soprattutto sulla questione della violazione delle misure anti-Covid, perché mi pare centrale, nuovo e agghiacciante, per quanto non inaspettato. La sorveglianza speciale, come qualsiasi misura preventiva ad personam, è uno strumento molto pratico per lo Stato per colpire il dissenso. Colpisce per singoli e allo stesso tempo prevede generalmente il divieto di frequentare persone con altre misure preventive e/o condanne, magari anche il divieto di frequentare più di un certo numero di persone, di partecipare ad assemblee e manifestazioni. Insomma, tenta di isolare. Penso sia importante da tenere a mente, a maggior ragione ora che diventa sempre più sovversivo avere contatti sociali. Non so se questa sorveglianza speciale diventerà effettiva, sicuramente il giudizio avverrà dopo metà dicembre, ma in ogni caso è importante, credo, che chi ne ha voglia inizi a ragionarsi le restrizioni pandemiche anche nell'ottica di eventuali conseguenze pesanti sulla già ben circondata libertà che ci si vive. Il fatto che siano solo multe, robette amministrative, fa sì che vengano trattate come un parcheggio in divieto di sosta o il fatto che riguardino la sacra, inviolabile, divina salute pubblica, le innalza a fattore fondamentale per tentare di rieducare, riportare sui binari chi sceglie di decidere con la propria testa? Non lo so perché non prevedo il futuro, mi fa anche un po' schifo il futuro. Quello che so è che queste premesse non portano a nulla di buono. Se andrà bene a me questa volta, magari alla prossima qualcuno con le stesse motivazioni potrebbe andare peggio, insomma, meglio saperlo e avere uno strumento in più per analizzare i cambiamenti in atto nella repressione alla luce del fatto che questa ansia pandemica sta diventando la nuova normalità. Che poi, al solito, ognuno ne faccia quel che vuole delle proprie analisi. Per quanto mi riguarda, non credo che una spada di Damocle a vita sulla testa mi impedirà di scegliere da me, o quantomeno provarci, le mie strade. Marriage is what brings us together today. hungry. You make it so they can buy guns for the bus to go ahead when the time comes. Care before I'm done, bring in the joy. Medium to victory for everybody. Violent cause and solution. Food and whiskey, peace and lies. We don't let it to prevent it. Set down the world, try to get our time to fly. Violent and violent cause and solution. Food and whiskey, peace and lies. We don't let it to prevent it. Set down the world, try to get our time to fly. Ed eccoci. Ed eccovi sempre all'ascolto di Zardins Magnetics qui a Radio De Furlane, il programma che va in onda ogni giovedì dalle 20 più o meno alle 21. La regia adesso mi lascia parlare sulla bellissima musica delle Arum Scarum, mentre prima avevamo ascoltato anche Stasis. Sulle parole, sull'intervento precedente sulle patriarche. Leggere il comunicato che il compagno sardo Davide Delogu ha fatto uscire in questi giorni dalla sua situazione di recluso e deportato. Mi fa molto piacere leggere questo comunicato perché vi si respira alta libertà. Dunque, ecco il comunicato di Davide De Logu. Peccato non riuscire a leggere i vostri comunicati. Purtroppo, non potendo scrivere un contributo per la lotta, a causa del muro della censura che blocca, faccio uscire in questi pochi minuti le mie gioiose parole di complicità e tenacia tra noi prigionieri in lotta. Ritengo infatti importante la coesione come fattore di crescita della componente rivoluzionaria contro l'attacco del sistema penitenziario nella sua logica di seppellire, controllare e vessare. Una logica che porta avanti con metodi vessatori totalitari e attraverso una politica infame di aggressione con diverse forze autoritarie che agiscono come corpo unico per colpire più forte e per cercare di distruggerci contro l'annullamento. Così continua il comunicato di Davide De Logu. Contro l'annullamento dell'umano e dei miei principi, con la tipologia dell'isolamento, nell'isolamento con il 14 bis in cui mi trovo, la mia risposta è guerra. Io considero che se toccano a uno di noi, toccano tutti, e ritengo che il mutuo appoggio e la solidarietà combattiva, come sta avvenendo in questa battaglia, possa rafforzare anche noi come corpo, che si unisce quando bisogna mettere a compimento l'attacco e controattacco al nemico che vorrebbe annientarci. Da parte mia, nonostante tutto, è la conflittualità quotidiana che faccio esplodere contro le continue vessazioni e tutto ciò che esiste. Quindi nessuna pace. Questo continuo con il rifiuto di recarmi nel merdoso passeggio, lotta che dura già da mesi contro l'isolamento. Inizio lo sciopero del vitto dal 26 ottobre, sciopero che leggo lo sciopero del vitto dei compagni della AS2 di Terni, Alta Sicurezza 2 di Terni, che hanno dato vita a questo percorso solidale di cui ne vado fiero, insieme a tutti gli altri compagni che partecipano nelle altre galere. Il mio sciopero dell'aria è illimitato, mentre quello del vitto proseguirà oltre il 1° novembre, che è in 14 bis, è come se fosse un mezzo sciopero della fame, per esprimere il mio appoggio solidale allo sciopero della fame di Natasha contro la censura. Unisco i miei scontri contro l'isolamento in questo contesto di scioperi per esprimere quindi anche il mio appoggio solidale a Natasha. Il mio sciopero del vitto proseguirà oltre il 1° novembre, fino a quando Natasha non terminerà il suo sciopero della fame contro la censura. Un abbraccio carico di forza, di combattere a tutti i compagni e compagne che dentro stanno andando contro la brutalizzazione del sistema democratico, fino ai suoi accanimenti prepotenti e con l'auspicio che anche fuori si pratichi la rabbia che esplode nella solidarietà diretta più libera di agire. Il comunicato di Davide si conclude con la sua firma che è Prisoneri Anarchicu Davide De Logu. Da Zardins Magnetics salutiamo i detenuti e le detenute che riescono ad ascoltarci e le invitiamo a un contatto scrivendo a Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, codice SIMCAP 34121 Trieste. Per ogni contatto c'è anche un indirizzo di posta che è liberetutti@autistiche.org, ma daremo questi recapiti anche a fine programma. Back as the right things.

listen to the ground. It sings a million miles away, and yet it's nearly here. And so they start to bear their fangs, and we can smell their fear. Annunciata una mobilitazione in solidarietà alle anarchiche e agli anarchici sotto processo in Italia, e ora voglio leggere il manifesto di chiamata. Una certezza. Oggi assistiamo ad un inasprimento della repressione facilitato dall'emergenza sanitaria Covid-19 e di conseguenza ad un attacco a tutte le forme di conflittualità, compreso il movimento anarchico. Centinaia di compagni e compagne sono e saranno a breve processati per diverse operazioni repressive portate avanti dalle procure. Scripta Manent, Panico, Ritrovo, Bialystok, Lince, Renata, Scintilla, Prometeo, Processo del Brennero, processo per l'attacco alla sede della Lega di Treviso. A governare sembrano di fatto Confindustria, la direzione antiterrorismo e l'antimafia, mentre lo Stato si concentra nel cancellare la pratica dell'azione diretta e persino il pensiero sovversivo. E allora, collegare le epidemie al saccheggio capitalista del pianeta diventa una premessa di terrorismo, così come ogni forma di mobilitazione può diventare un reato associativo. Quando il conflitto assume la forza della rivolta, come è successo a marzo nelle carceri, la risposta dello Stato ricorda i tempi di Dalla Chiesa. Irruzioni armate di guardie e carabinieri, pestaggi sistematici e una vera e propria strage con la morte di 15 prigionieri. L'amministrazione penitenziaria sparpaglia e isola rivoluzionari e ribelli nei diversi gironi del sistema carcerario, impedisce ogni contatto con l'esterno e la presenza fisica degli imputati nei processi con la videoconferenza, ma estende a tutti i prigionieri anche alcune prassi detentive che caratterizzano il regime 41 bis, tra tutte colloqui ridotti con divisioni in plexiglass, censura sulla corrispondenza, chiusura delle celle. Le procure dal canto loro ricostruiscono la storia del movimento anarchico dividendo le pratiche rivoluzionarie in accettabili e terroristiche. La forza del reame è la debolezza delle lotte, un sistema che produce solo sciagure sociali, economiche, ambientali, si regge sulla paura e ricorre ogni giorno di più al linguaggio della guerra. Proponiamo quindi 2 settimane di mobilitazione dal 9 al 24 novembre. in solidarietà ai compagni e alle compagne sotto processo, contro la differenziazione e l'isolamento carcerario, per ricordare i morti nelle carceri, per rispondere ai nuovi confinamenti e al coprifuoco, perché la fiaccola della rivolta non si spenga mai e sempre nuove mani siano pronte ad afferrarla. In un presente incerto per noi, ma anche per i padroni, l'unica certezza è che resistere e contrattaccare è giusto. E questo è il manifesto firmato Anarchiche e Anarchici, che chiama la mobilitazione in solidarietà alle anarchiche e agli anarchici, appunto, sotto processo, contro il carcere, per la liberazione di tutte e tutte le prigioniere, mobilitazione dal 9 al 24 novembre. siamo arrivate ai saluti. Siamo arrivati ai saluti da Zardins Magnetics, perché sono le 21 più o meno, e quindi Zardins Magnetics si conclude, programma che qualcuno sta ora ascoltando sui 90 MHz di Onde Furlane. È una cosa che si dice a inizio trasmissione, ma noi facciamo tutto il contrario, perché di sì. E o sta ascoltando anche con lo streaming radioondefurlane.eu. Ricordo che Zardins Magnetics è un programma che va in onda appunto ogni giovedì a Radio Onde Furlane dalle 20 alle 21.30. È possibile anche riascoltare tutto dal podcast soundcloud.com/radiaz10n3. E ci piace anche ricordare i gruppi che abbiamo ascoltato oggi, e mentre sotto piano piano stanno ancora andando i Cindy Os, abbiamo ascoltato Stasis, le Arum Scarum, Contropotere, Threat of Riot e Inner Terrestrial. Quindi belli ascolti davvero, e nel darvi sicuro appuntamento a giovedì prossimo qui da Radio Onde Furlane, Zardins Magnetics vuole anche ricordare i possibili contatti, cioè vuole ricordare la possibilità di un contatto con una casella postale che volentieri riceve lettere, cartoline, comunicati e anche con un indirizzo di posta. Allora, la casella postale a cui scrivere riguarda la Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Lo dico ancora, è l'Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Per ogni contatto c'è l'indirizzo di posta elettronica, che è liberetutti@autistiche.org. Adesso Zardins Magnetics finisce davvero, vi salutiamo dandovi appuntamento a qui su Radio Onde Furlane per il prossimo giovedì alle ore più o meno 20. Mandi.